Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria. E questa sera ancora una volta l'agenda è ricca di argomenti da affrontare. Ci dovremo concentrare necessariamente nella prima parte del programma sul decreto rilancio, anche se le indiscrezioni che circolano sono ormai moltissime. Non abbiamo ancora ben chiara la direzione che prenderà il governo e i punti salienti che caratterizzeranno questo provvedimento, che deve affrontare ovviamente ancora una volta l'emergenza economica che deriva dalla pandemia, dal coronavirus, che ha drammaticamente colpito il nostro paese, ma soprattutto deve cercare di capire poi in un secondo momento come far ripartire questo paese. Per cui è un super provvedimento che vale 55 miliardi di euro, 253 articoli, un pacchetto enorme, una sorta di provvedimento omnibus, come lo si potrebbe chiamare appunto in altri momenti dell'anno legislativo e dell'anno politico, ma che prova ad accontentare anche tutte le categorie colpite da questa crisi, e praticamente sono proprio tutte. Oggi parleremo peraltro, oltre a fare un punto della situazione in attesa che il provvedimento venga varato, perché siamo in attesa per la verità da diversi giorni. In queste ore è in corso un pre-consiglio dei ministri che ha una durata a quanto pare interminabile e che cerca di arrivare poi al consiglio dei ministri che varerà il provvedimento con le idee molto chiare. Dicevo, oggi parleremo in particolar modo di una delle tante categorie colpite in maniera durissima da questa crisi, e parleremo della categoria dei balneari. Avete sentito anche nel corso dei vari giornali radio della giornata appunto che abbiamo fatto sentire la voce di uno dei tanti rappresentanti di queste associazioni, delle associazioni dei balneari, che oltre a lamentare il fatto che chiaramente si stanno disponendo delle regole molto rigide per la frequentazione delle spiagge la prossima estate, e per la verità se tutto fosse andato bene come negli anni passati già le spiagge sarebbero state molto affollate appunto di persone, quindi il business per questo comparto sarebbe già partito quest'anno, ma oltre alle regole sul distanziamento e la frequentazione delle spiagge, quest'anno saranno delle regole rigidissime, come avete avuto modo di sentire, adesso ci ritorneremo, ma il punto è che questa categoria lamenta il fatto che è stata colpita solamente da una regolamentazione molto dura, ma da pochi sostegni economici, e chissà quando potranno di nuovo ripartire, ne parleremo tra poco. Tra gli altri temi che affronteremo questa sera, oltre alla giornata di borsa, come facciamo tutti i giorni, per altro una giornata che ci racconta di un buon andamento da questa mattina di Piazza Affari, che anche adesso sta guadagnando un punto percentuale, mentre sono molto più incerte le altre piazze europee. Da stamattina per esempio Parigi viaggia in negativo e non ne vuole sapere di cambiare direzione, è migliorata ma è ancora negativa. Londra appaiata a Milano, Francoforte senza infamia e senza lode viaggia poco al di sopra della parità. Una giornata che non sa bene che direzione prendere invece negli Stati Uniti, dove adesso il Dow Jones è positivo, guadagna lo 0,28%, lo Standard & Poor's più 0,09%, gli indici americani erano partiti meglio. Una giornata molto importante per gli Stati Uniti, perché oggi è iniziato il programma di acquisto di titoli di debito societario da parte della Banca Centrale Americana, 750 miliardi di dollari. Non è un acquisto diretto, ma è un acquisto che viene effettuato attraverso l'acquisizione da parte appunto della Federal Reserve, attraverso un veicolo speciale costituito dal più grande fondo di investimento al mondo, BlackRock, di ETF. È un programma molto tecnico, ma che è destinato comunque, fra le varie iniziative prese dalla Banca Centrale Americana nelle ultime settimane, a garantire un'argine, una stabilizzazione appunto del mercato nel caso in cui si riparta di nuovo con la volatilità. Ne parleremo più tardi con il nostro collega corrispondente dagli Stati Uniti, Riccardo Barlam, che però in realtà è rientrato in Italia ma ancora continua a seguire le vicende americane appunto da diverse settimane. Infine, per completare un quadro internazionale, parleremo di un altro argomento, perché poi anche tutto quello che succede nel mondo, che ormai è tutto condizionato dalla pandemia e dal coronavirus, parleremo dell'Argentina, perché questo paese è pronto a dichiarare l'ennesima bancarotta della sua storia, e quindi ancora una volta inadempiente nei confronti di una ricca platea di creditori internazionali. comunali. Scadeva un prestito qualche giorno fa, non ha pagato le cedole previste, 500 milioni di dollari. E insomma, di nuovo raccontiamo ancora una volta, cambiano i governi ma la storia dell'Argentina è sempre la stessa. E cercheremo di capire a quanto ammonta l'insolvenza in questa circostanza, questa ennesima bancarotta, e soprattutto se è destinata anche magari a ripercuotersi a livello globale, perché insomma abbiamo capito che tante volte queste crisi non è che siano isolate ma hanno delle ricadute pesanti anche altrove. Questo è un po' il programma dell'agenda di questa sera. Se ci volete fare compagnia ci potete scrivere come sempre al 349 238 6666. Prima che mi dimentichi di farlo alla fine, lo faccio adesso. Grazie a Barbara Bianchi e a Maria Sole Lisciandro per la collaborazione in redazione, Filippo Aureggi stasera in regia. Partiamo con le notizie in breve. La battuta dell'anno di un ascoltatore che scrive: l'Argentina in bancarotta. Beh, almeno da qualche parte va tutto come sempre, ha ragione. Sicuramente questa ennesima bancarotta è stata accelerata anche dalla crisi economica che in Argentina colpisce duro, dalla crisi economica determinata appunto dalla pandemia. Allora cominciamo come sempre con le quotazioni delle materie prime. L'oro $1,700 l'oncia, circa, un po' in crescita rispetto a ieri, ma da diverse settimane si gravita intorno a questo livello. Il petrolio, il WTI, il greggio americano, è $25,42 al barile, sopra i 30 il Brent a Londra. C'è una dichiarazione di Trump, fra le tante che anche oggi è tornato a rilasciare, soprattutto a twittare, che riguarda proprio i prezzi del petrolio, e dice: stanno salendo con l'Arabia Saudita che taglia i livelli di produzione. Allo stesso tempo i prezzi della benzina sono a livelli bassi record. Transizione verso la grandezza, così ha twittato il presidente americano, mettendo in evidenza come in questo contesto le società energetiche americane sono ben posizionate. Insomma, in realtà qualche settimana fa avevamo avuto un'evidenza molto diversa, quando un derivato sul greggio, quello di maggio, era addirittura scivolato in territorio negativo perché c'erano enormi problemi di stoccaggio, non sanno più dove mettere i barili di petrolio, per cui qualche settimana fa avevamo avuto una percezione molto diversa sullo stato di salute delle società petrolifere americane. Trump è ottimista, è bene così. Intanto in Italia i prezzi dei carburanti hanno preso a scendere. Secondo le rilevazioni settimanali del Ministero dello Sviluppo Economico, il prezzo della benzina in modalità self-service si attesta a 1,362 euro al litro, contro l'euro 374 di settimana scorsa. Per il gasolio il prezzo medio nazionale, rilevato sempre dal Ministero dello Sviluppo Economico, è di 1,252 euro al litro. Allora, tra l'altro, queste quotazioni si scontrano un po' con l'agitazione invece dei benzinai, perché a partire da questa sera, come ricorderete, le aree di servizio autostradali, quindi perché si mette in viaggio, anche se sappiamo che in questo periodo si viaggia molto meno, ma noi lo diciamo soprattutto a quelli che lavorano, che devono transitare lungo la rete autostradale per portarci le merci che ci servono, e quindi continuano ad approvvigionare negozi, centri commerciali e quant'altro, ma anche le aziende, ma lo sapranno benissimo. Ma per chi avesse perso la notizia lo ricordiamo: a partire dalle 22 di questa sera le aree di servizio autostradali chiudono per 48 ore per lo sciopero proclamato per oggi, per il 13 e 14 maggio, dalle organizzazioni appunto di categoria dei distributori di benzina, quindi di gestori di impianti di carburante, per denunciare, dicono, la condizione di emergenza economica e sanitaria nella quale continuano ad essere lasciate le imprese di gestione. Torniamo alle questioni internazionali, riprendendo un po' alcune notizie che riguardano intanto la Cina. Come sapete, si è ricominciato un po' di contenzioso tra Stati Uniti e Cina quando nei giorni scorsi gli Stati Uniti e Trump aveva accusato la Cina proprio di essere responsabile, di aver creato in laboratorio il coronavirus, e quindi a causa di questo Trump aveva detto: adesso io ricomincio con le ritorsioni commerciali. E quindi forse la Cina si è spaventata davvero, perché ha annunciato un'altra lista di 79 beni americani da escludere dal secondo round di dazi reciproci, e questo proprio nel mezzo delle pressioni americane per l'aumento dell'import in linea con la fase 1 dell'accordo sul commercio, il famoso accordo, come ricorderete, di gennaio, che aveva chiuso 2 anni di discussione sulla questione appunto commerciale. Il provvedimento sarà operativo dal 19 maggio 2020, quindi quest'anno, al 18 maggio dell'anno prossimo, ed è stato adottato malgrado la forte irritazione cinese che è stata rilevata anche dalla stampa locale dal Global Times, il tabloid del quotidiano del popolo, secondo cui alcuni advisor governativi, quindi consiglieri del governo cinese, stanno sollecitando Pechino ad invalidare l'accordo per negoziarne uno più favorevole. Ci manca pure che riparte questa polemica fra le due potenze, chissà dove arriviamo. Intanto alcuni dati economici che sono arrivati oggi. Dalla Cina l'inflazione di aprile si è attestata su base annua al 3,3%, frenando quindi rispetto alla statistica di marzo quando era al 4,3% e sul 3,7% atteso dagli analisti. È il livello più basso da settembre 2019 e questo naturalmente si deve alle misure adottate contro il Covid-19. Anche dal Giappone oggi abbiamo avuto alcune indicazioni interessanti. La diffusione del coronavirus si ripercuote sull'andamento del principale indice economico, che è sceso ai minimi in 9 anni nel mese di marzo. L'indicatore ciclico è calato di 4,9 punti a quota 90,5 su una base 100, mai così in basso dai tempi del disastro nucleare di Fukushima, nel marzo del 2011. Il governo di Tokyo ha mantenuto il giudizio su una tendenza in fase di peggioramento per la terza economia mondiale. E in tutto questo stamattina cattive notizie sono arrivate da Toyota, che ha previsto un crollo dei propri utili di quasi l'80% per quello che riguarda l'anno fiscale 2020-2021 iniziato il 1 aprile, quindi una sorta di profit warning per questo grande gruppo, ma sappiamo che nel complesso a livello mondiale tutta l'automotive è tra i settori più fortemente penalizzati da questa crisi mondiale. A proposito di auto, andiamo a quelle di Tesla, perché Elon Musk, il patron del grande gruppo, appunto, ha fatto sapere di voler alzare l'asticella della sfida contro il governo della California, che come sapete non gli consente di riaprire i suoi stabilimenti, e quindi si è detto pronto ad essere arrestato pur di far ripartire le attività di Tesla bloccate dal lockdown in vigore appunto per combattere la diffusione del contagio. Tesla, ha detto Musk, riprende la sua produzione nello stabilimento di Fremont, ovviamente anche lui l'ha fatto sapere twittando sul suo profilo del social, e le attività, ricordiamo, sono ferme dal 23 marzo, ma Musk ha fatto anche di più, perché nel weekend, come ricorderete, forse lo avete letto, aveva minacciato di spostare la produzione in Texas. Trump è con lui, la California, dice, dovrebbe consentire a Tesla e a Musk di riaprire lo stabilimento. Ora dovrebbe essere fatto rapidamente e in sicurezza. Allora, dicevamo di turismo, automotive tra i settori più in crisi per questa crisi, ma naturalmente le compagnie aeree, come sapete, non è che se la passano meglio, e allora ci sono delle novità che riguardano un paio di grandi compagnie. Intanto Ryanair, la compagnia aerea low cost tra le più note a livello mondiale, ha annunciato che riuscirà a ripristinare almeno il 40% dei propri voli dal 1 luglio. La decisione è soggetta all'abolizione delle misure restrittive sui voli all'interno dell'Unione Europea imposte dai governi per far fronte alla pandemia. Attualmente il 99% degli aerei della compagnia sono a terra. In risposta alla crisi del settore provocata dalla pandemia, anche Brussels Airlines ha fatto sapere di tagliare del 30% la propria flotta e del 25% i posti di lavoro. Lo ha annunciato oggi la compagnia aerea, precisando che lavorerà con le parti sociali per ridurre al minimo assoluto il numero dei licenziamenti. Intanto altre notizie arrivano dalla Francia, che ha bruciato in 2 mesi 6 punti di PIL. Lo ha fatto sapere la Banca Centrale Francese, e secondo la quale lo Stato francese dovrà adesso investire in alcune imprese per evitare il fallimento. Come sapete, anche questo è un dibattito molto aperto in Italia su se sia il caso di farlo e con che modalità. Intanto oggi tutte le principali agenzie di informazione europee, c'era anche l'ANSA, hanno intervistato il direttore generale del MES, il meccanismo di stabilità Klaus Regling. E quali sono state le dichiarazioni più interessanti rilasciate da questa figura? Regling ha detto: tutti i paesi possono ricevere il 2% del proprio PIL. Sapete che questo è l'ammontare che il MES può erogare ai singoli paesi che ne fanno richiesta, appunto per fronteggiare l'emergenza sanitaria che deriva dal coronavirus. E si è molto discusso sul fatto che l'Italia avesse necessità di ricorrere a questo strumento, ma come sapete c'è il dibattito sulla preferenza verso altri strumenti. Ma in ogni caso la linea di credito apposita concessa dal MES è disponibile anche per l'Italia e, dice Reckling, tutti i paesi possono ricevere il 2% del proprio PIL attingendo a questo strumento e ognuno può calcolare i suoi vantaggi. Per la Spagna, per esempio, ha fatto l'esempio della Spagna, che ha un tasso appena sotto l'1% di crescita del prodotto interno lordo, il risparmio sarebbe di 200 milioni di euro all'anno, che per l'orizzonte di 10 anni di durata eventuale del prestito sarebbero 2 miliardi. Se si fa il calcolo per l'Italia sarebbero 7 miliardi, perché i tassi di interesse sono più alti. Sappiamo che il debito italiano è alto, ha detto Regling, ma sappiamo anche che i tassi di interesse in questo momento sono molto bassi. E c'è un aspetto interessante di cui non molti sono consapevoli. Se oggi l'Italia ha un bond a 10 anni, un BTP emesso 10 anni fa e che scade questa settimana, questo deve essere rifinanziato. Il rifinanziamento con queste condizioni sui tassi avviene ad un tasso molto più basso di quello che l'Italia avrebbe pagato 10 anni fa. Questo significa che il peso per gli interessi per l'Italia andrà giù con ogni bond che è rifinanziato. Insomma, un discorso di macroeconomia e gestione del debito pubblico molto ampio, con il quale oggi appunto le agenzie internazionali si sono sbizzarrite. Peraltro, a proposito di titoli di Stato, oggi il Tesoro ha emesso 10 miliardi e mezzo di bot annuali, 7 annuali, 3 miliardi e mezzo di bot di natura flessibile. Per il bot annuale, di cui sono stati collocati 7 miliardi, il rendimento è risultato in calo, molto in calo rispetto all'operazione di un mese fa, allo 0,248%, dallo 0,53% del collocamento di aprile. Quindi questa è stata una buona notizia, nonostante la tensione generale, nonostante lo spread sia a 2,40%, a quanto pare oggi gli investitori ci hanno graziato chiedendo appunto la metà rispetto ad un mese fa. Abbiamo ancora un sacco di notizie, posso leggervi per esempio quella che riguarda il punto della situazione sulle domande di moratorie sui prestiti bancari che vengono inoltrate da diverse settimane dalle aziende, piccole e medie imprese, appunto alle banche italiane, che hanno bisogno di liquidità in questo momento, ma che chiedono anche il sostegno pubblico grazie al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che è stato attivato in questa fase. E allora oggi abbiamo l'ennesimo bilancio rilasciato da Ministero dell'Economia, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, ABI, che è l'Associazione delle Banche Italiane, Mediocredito Centrale e SACE, che sono tutti gli attori che hanno coordinato in maniera congiunta questa operazione, la famosa task force appunto costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal governo. E allora, qual è il punto della situazione odierno? Sono salite ad oltre 2,2 milioni le domande di moratoria per complessivi 233 miliardi e superano quota 150.000 ad oltre 7,8 miliardi le richieste di garanzie per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese. Avrei ancora tante altre notizie, ma direi che non ce la facciamo a raccontarle tutte. Magari vediamo se mi ci posso divertire nel corso della trasmissione. Adesso direi che è tempo di andare subito al primo tema del giorno. No, avevo capito che appunto slittassimo con Gianni Trovati e dovessimo parlare con il primo ospite di oggi, che era il rappresentante dei balneari italiani, uno dei tanti, uno delle tante sigle. Oggi ne abbiamo con noi, fra un po' lo acchiappiamo al telefono, tranquilli, perché naturalmente abbiamo solamente fatto un piccolo cambio di programma per quello che riguarda l'alternanza degli ospiti, ma non c'è nessun problema. Fra un po' ci collegheremo con Antonio Capacchione, che è presidente del SIB, il Sindacato Italiano Balneari, aderenti a FIPE, Confcommercio, FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. E allora, visto che intanto aspettiamo di collegarci con Capacchione e poi sentiremo anche Gianni Trovati che ci fa il punto sul decreto rilanci in questa interminabile giornata di governo, in questo pre-consiglio dei ministri. Al telefono non risponde nessuno, niente. Allora possiamo fare una cosa, Filippo? Ci prendiamo la pausa di oggi, dopodiché scegliamo altre notizie, ne abbiamo una marea da raccontare ai nostri ascoltatori a tra poco. Focus Economia. Eccoci di nuovo in diretta, vediamo adesso se riusciamo a collegarci con uno dei due ospiti che avevamo previsto a quest'ora. Intanto sì, possiamo anche anticipare Maria Sole, eventualmente Riccardo Barlam ci racconta di questa importante iniziativa della Banca Centrale Americana, come sapete, per fronteggiare l'economia ci pensano i governi, ma sui mercati finanziari devono intervenire le banche centrali, e oggi parte un'iniziativa enorme per la prima volta nella storia da parte della Banca Centrale Americana. Ci collegheremo tra poco con il nostro collega. Intanto vi racconto anche un altro paio di notizie. Avete sentito nel corso del giornale radio della forte polemica, l'ennesima, scatenata oggi dalle parole del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Lui ha detto, insomma, la speculazione che abbiamo osservato, riferendosi la questione delle mascherine, non c'è più e non tornerà. Sapete quante tra farmacie, ma anche le insegne della grande distribuzione, hanno ritirato dal mercato le mascherine perché non vogliono venderle al prezzo calmierato stabilito dal commissario per l'emergenza. Lui ha detto: noi andiamo avanti, il nostro obiettivo è tutelare i cittadini, e quindi io le critiche le accetto solamente dai cittadini. Però c'è una cosa che volevo segnalarvi interessante che oggi Arcuri ha detto, e cioè: nelle prossime settimane le mascherine a 50 centesimi non le volete vendere in farmacia, non le volete vendere al centro commerciale, allora si troveranno anche nei tabaccai. La firma avverrà nei prossimi giorni proprio con l'associazione dei tabaccai, che ha 50.000 punti vendita nel paese. Noi abbiamo sottoscritto i primi due accordi non esclusivi con la grande distribuzione e con la distribuzione dei farmacisti, confidiamo di farne altre ancora di accordi con reti di distribuzione altrettanto massicce. E poi Arcuri ha ancora ricordato: nell'ultima settimana i supermercati e la grande distribuzione hanno venduto 19 milioni di mascherine al prezzo di 50 centesimi più IVA, arrivando ai famosi 61, e quindi Arcuri ha ribadito che l'assenza dei dispositivi nelle farmacie non è dovuto al prezzo calmierato, ma ai problemi nel sistema di distribuzione nelle farmacie. E qui, insomma, speriamo oggi di aver scritto, ma ci crediamo poco, l'ultima puntata di questa polemica, che tanto durerà, visto che ancora queste benedette mascherine dovremo indossare ancora per un sacco di tempo. Andiamo allora a parlare degli Stati Uniti. Filippo, ma vuoi fare un cambio di canzone, visto che stai lì appunto a fare la regia? Facciamola allora come si deve, accompagniamo doverosamente questo cambiamento di tema. Riccardo Barlam, Il Sole 24 Ore, buonasera Riccardo. Ci piaceva tanto quando dicevamo corrispondente da New York, adesso mi pare di ricordare che sei ritornato momentaneamente di qua, non faccio focus da un po' di tempo con te. È entrato un po' di qua, che la situazione è complicata, infatti. Sono sempre, come dire, orientato con la fascia americana, quindi devo dire, sono ancora nella mattinata, ma spero di poter rientrare. In questo momento è abbastanza complicata ancora la situazione. Infatti. E come sapete, gli Stati Uniti sono il primo paese per numero di casi accertati e purtroppo morti, che hanno superato gli 83.000. E peraltro, esatto, con una grande insistenza dell'amministrazione Trump a voler ripartire, perché ovviamente se si ferma la locomotiva americana siamo fritti, e qua hai voglia a compensare con la ripartenza cinese, ma insomma ci serve che tutto il mondo riparta. Però le polemiche non sono poche, oggi c'è pure quella con Musk, cioè non tra loro, perché Trump lo appoggia nella sua decisione di voler ripartire a tutti i costi. Poi oggi in questo momento c'è alla Commissione Sanità e Senato è in corso una videoconferenza con tutti i vari responsabili della sanità americana, tra cui questo Anthony Fauci e gli altri, che sono tutti in quarantena perché sì, alla Casa Bianca si sono ammalati in questi giorni un paio di persone, quindi sono tutti messi in quarantena preventiva. E un accenno proprio di cronaca, proprio adesso Fauci ha detto che ok, le misure, la fase 2, però attenzione, perché passare a una fase 2 troppo in fretta, quindi non facendosi guidare dai dati, non aspettare quindi 14 giorni che loro consigliano da quando cominciano a diminuire i casi di contagio, rischia non solo di far aumentare le morti. E Trump qualche giorno fa ha detto che non gli interessa se aumenteranno le morti, ma vuole riprese a tutti i costi l'economia, ma rischia, dice lui, anche di non l'obiettivo di far ripartire il paese, di venire vanificato da questo da questa fase 2 che rischia di non passare, perché lui dice la cosa più importante. Mi sembra a Campobasso, ci sono dei casi in questi giorni di ritorni in Molise. E lui dice la cosa più importante è quando succederanno questi ritorni, e lì bisogna subito intervenire per evitare che tutto il lavoro fatto e i sacrifici fatti da tutti vengano in qualche modo... Esattamente quello che sta succedendo in Italia e ovunque nel mondo. Da una parte la politica, le attività economico-produttive che vogliono partire, dall'altra parte le autorità sanitarie che necessariamente frenano, perché insomma quello che si è visto negli ultimi mesi è stato talmente drammatico che non vogliamo ritornarci, e quindi chiaramente da quel punto di vista lì scientifico e medico c'è un freno e un invito alla cautela. Senti, andiamo invece un po' a raccontare quello che fa da oggi la Banca Centrale Americana. Già da settimane sappiamo che in tre o quattro step diversi la Federal Reserve ha annunciato iniziative di non è sostegno al mercato, quanto di stabilizzazione al mercato, no? Perché Riccardo, stavo proprio valutando quello che parte oggi, questo acquisto di corporate bond attraverso gli strumenti degli ETF, quindi è proprio, come dire, un argine alla potenziale volatilità del mercato, perché noi sappiamo, spesso proviamo a spiegarlo anche da Radio 24, come funzionano gli ETF, che sono dei fondi di investimento di carattere passivo che però tendono nei loro movimenti ad esasperare i movimenti di mercato, per cui sono proprio gli strumenti forse dove era stato più idoneo pensare di agire, no? Allora ci spieghi esattamente cosa succede da oggi? Da oggi praticamente la Fed, che già vi ricordate dall'inizio marzo ha avviato 8 azioni straordinarie, che se vuoi te le ripeto tutte, ma sì, insomma sì. Ha messo in campo un pacchetto di azioni per sostenere non solo i mercati ma anche l'economia reale. Per la prima volta la Fed, oltre a abbassare i tassi a zero, insomma sta prestando soldi anche all'economia reale. C'è questo Main Street Lending Fund destinato alle grandi società, alle catene di retail, alle aziende manifatturiere, e quindi per la prima volta non solo sostiene le banche, diciamo così, ma sostiene l'economia Main Street. E oggi ha annunciato la Fed di New York il programma di acquisto di titoli di debito societario, quindi per 750 miliardi di dollari, vale a dire tutti i debiti che in queste settimane stanno mettendosi nella pancia delle aziende, tutte le banche che prestano i soldi, e la Fed li riacquista, quindi in qualche modo è un tentativo di, come dicevi tu, di calmierare la speculazione su questo tipo di strumenti finanziari, e quindi è una cosa importante, perché in qualche modo questa operazione sentite? Sì, come no, sì, ti stavamo proprio ascoltando con religioso silenzio, ovviamente, molto interessante. No, ecco, questa operazione, scusate, sento il telefono che va e viene, mi dispiace per gli ascoltatori, ma insomma è un'altra facility pensata proprio per comprare il debito direttamente da chi lo emette, e quindi per in qualche modo alleggerire il peso sulle banche e infatti, le sofferenze bancarie. Adesso manca solamente che si vada ad intervenire in forma diretta o indiretta sulle azioni, dopodiché credo che il campo degli interventi della Banca Centrale Americana sia assolutamente completo. Aggiungo che, non contento di tutto questo, ovviamente Donald Trump lo continua a pungolare, quel povero Jerome Powell, che si sentirà fare 3 telefonate al giorno da parte del presidente americano, perché oggi Trump, tra le varie cose che ha twittato, ha anche scritto ad un certo momento della giornata: certo che se i tassi di interesse fossero negativi, allora sarebbe veramente l'apoteosi. Che ne pensi? La Powell è un uomo molto paziente, un uomo molto misurato, e forse per mesi, vi ricordate, la sua poltrona era quella che scottava di più, ogni mossa veniva criticata da tutti, in anticipo veniva criticato, quindi quest'uomo è veramente l'esercizio della pazienza e della moderazione, forse il più bravo di tutti gli americani. Però a dire il vero, da quando hanno cominciato da marzo, da quando hanno cominciato con queste azioni, la banca centrale ha messo in campo qualcosa come 2.300 miliardi di dollari di dote complessiva per far ripartire l'economia, e questo si aggiunge ai 3.000 miliardi di fondi federali approvati dal Congresso, quindi pensate che il PIL italiano è 1.800 miliardi, loro hanno messo in campo qualcosa come 5-6 mila miliardi di dollari, e si parla ancora di un nuovo pacchetto di aiuti per i governi, per i PET, per gli stati che rischiano di fallire. Insomma, direi che sta facendo molto Powell e la banca centrale per sostenere America in questo momento così complicato. Infatti lo abbiamo visto chiaramente anche venerdì scorso con il drammatico dato sulla disoccupazione, che è salito al 14,7%, appena due mesi fa era sotto il 4%, ai minimi da 50 anni a questa parte, adesso è volato nel giro di due mesi solamente ai massimi storici mai registrati. C'è peraltro una dichiarazione di poco fa del segretario al tesoro Steven Mnuchin, che dice i numeri del mercato del lavoro americano miglioreranno in estate in parallelo alla riapertura dell'economia, quindi parole di ottimismo. Oggi intanto Wall Street ha una giornata un po' incolore, almeno in questo momento gli indici viaggiano contrastati, con il Dow Jones appena positivo, più 0,05%, lo Standard & Poor's meno 0,10%, abbiamo avuto il dato sull'inflazione. Altre indicazioni interessanti che arrivano da queste giornate economiche americane, Riccardo? Ma oggi in realtà un messaggio positivo arriva anche dalla Cina, perché la Cina, c'è stata la scorsa settimana una telefonata del capo negoziatore cinese di UE al capo negoziatore, all'omologo americano, che è Robert Lighthizer, che il venerdì ha fatto saltare in alto i mercati, ha fatto un balzo positivo ai mercati. E oggi la Cina ha annunciato che una serie di beni, di dazi che avrebbero dovuto imporre, vengono in qualche modo messi da parte. È una mossa distensiva. Dietro questa mossa di Pechino c'è la forse impossibilità di, l'accordo della fase 1 prevedeva 200 miliardi di acquisti di prodotti americani in due anni in più da parte della Cina, quindi ripartiti il primo anno 70 miliardi e 130 l'anno dopo, al 2021, e in questo momento la domanda ovviamente di prodotti, di materie prime, col mercato dell'energia peraltro così basso, e di prodotti agricoli è più bassa in Cina, quindi la Cina in qualche modo vorrebbe rinegoziare in questo senso, facendo anche delle aperture a Washington, perché appunto vuole evitare questa guerra che si sta un po' giocando per ora solo verbale tra Stati Uniti e Cina, e quindi c'è questa mano tesa della Cina di oggi. Vedremo come andrà a finire, ma insomma è l'ennesimo tentativo cinese di in qualche modo smorzare le tensioni. È un po' la coda di paglia, perché con queste accuse che gli arrivano da ogni parte sul fatto di aver creato appunto in laboratorio il virus, è meglio che si dia anche una, come dire, calmata e dia tutta la sua ampia disponibilità anche dal punto di vista economico. Grazie Riccardo Barlam, presto, buona serata. Grazie. Allora abbiamo, caro Filippo, adesso un'altra pausa e poi andiamo un po' a cercare di capire a Roma a che punto sono sul decreto rilancio. Focus Economia. Si sta lavorando alacremente in queste ore alle coperture necessarie a completare la stesura del decreto rilancio. c'è questa riunione del pre-consiglio dei ministri che serve a preparare propedeutico al consiglio dei ministri vero e proprio che dovrà varare il testo. Questa pre-riunione, questo pre-consiglio è iniziato oggi alle 12, insomma Conte ha fatto saltare anche il pranzo a tutti. Mancano diversi fondi all'appello, e allora mancherebbero i fondi per la piena copertura della cassa integrazione che era già stata contemplata con provvedimento appunto con il Cura Italia. Mancano risorse per le misure come incentivi appunto al personale sanitario, peraltro vedo dalle agenzie che su qualche cosina si sono messi d'accordo. Ci saranno per esempio il bonus per acquistare mezzi per la mobilità sostenibile come biciclette e monopattini, sia le norme per le piste ciclabili. Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore, buonasera. Tu hai già prenotato il tuo monopattino, ti vedo già su Roma sfrecciare. Il monopattino che a Roma è lo strumento ideale. Infatti, vabbè. E poi diciamo che, ecco, conoscendoti tu non sei proprio tanto da monopattino, ma questo è un gossip, un pettegolezzo che rimane qua fra pochi intimi, fra me e la regia e pochi altri. Allora, hai qualche notizia di prima mano? A che punto sono? Su che cosa si stanno scontrando? Su quali punti sono d'accordo? Cosa manca ancora all'appello di questo dossier che domenica sera il ministro dell'economia Gualtieri sventolava da Fabio Fazio, insomma un faldone molto corposo, molto importante, 253 articoli, diverse decine di pagine. E allora cosa manca all'appello, a che punto sono, Gianni? Sì, allora alla fine spero che il provvedimento sarà un po' meno di 253 articoli, ma sarà comunque un provvedimento estremamente corposo. Appunto, cosa manca? Manca la quadra finale sulle coperture, perché da ultimo è entrato il taglio dell'IRAP della rata di giugno. Allora, aspetta che ti sentiamo male, è entrata il taglio dell'IRAP per la rata di giugno? La rata di giugno per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato, e naturalmente questo, siccome non c'è la possibilità di allargare ulteriormente il deficit da 55 miliardi, che è la base di finanziamento della manovra, impone di rivedere qua e là, di tagliare qua e là l'entità di alcune altre misure, e quindi possibile che ci sia una revisione in corso, certo. una revisione per esempio dei meccanismi per gli aiuti a fondo perduto, che dovrebbero essere un po' più leggeri di quanto ipotizzato l'altro giorno. E poi quindi si va a sacrificare proprio quella parte che in realtà le imprese chiedono di più, perché è inutile che tu gli metti sul piatto delle disponibilità finanziarie per andare a indebitarsi, o comunque delle garanzie per indebitarsi, credo che questa sia, e quindi sacrificano proprio questa parte. Si va a sacrificare il meccanismo degli aiuti a fondo perduto fino a 5 milioni di euro di fatturato, però va detto che sempre a queste imprese viene dato, come alle altre imprese, il taglio dell'IRAP, quindi il calcolo dare e avere, diciamo così, rispetto alle ipotesi iniziali andrà fatto quando questa infinita girando la normativa di ipotesi, bozze, eccetera, troverà finalmente pace, pace che dovrà trovare in serata tendenzialmente. L'idea del governo è ancora quella di fare un consiglio dei ministri in tarda sera, bisogna vedere se ci riescono, perché comunque l'elenco delle misure è ancora molto molto lungo, e poi deve trovare pace la sanatoria dei lavoratori agricoli, sì, migranti irregolari, su cui il governo sta traballando per ragioni più politiche che pratiche, perché va ricordato che lo stesso comitato tecnico scientifico ha nei giorni scorsi sottolineato che lasciare migranti in condizioni di non censimento sulla loro presenza e quindi sulle loro condizioni può essere molto pericoloso. Senti, invece su tutte le necessità di rifinanziare gli ammortizzatori sociali che sono stati messi in campo nelle ultime settimane, perché anche quello è un tema estremamente delicato, visto che molte aziende prima di ripartire, peraltro Gianni, scusami, questo è un gossip che ti racconto e magari lo condivido con te, ho saputo qualche giorno fa un'esperienza proprio capitata ad amici personali, che per la famosa cassa integrazione rateizzazione anticipata dalle banche, che io in realtà pensavo fosse erogata per l'iniziativa delle aziende che non che magari appunto hanno attivato tutto il processo al loro interno, ma che da parte centrale, da parte pubblica ancora non arriva, c'era questa modalità appunto di compensare momentaneamente il ritardo dello Stato attraverso il canale bancario. Scopro che è il lavoratore che direttamente deve andare a chiedere in banca questo anticipo come se fosse un prestito. Ma ti risultava che funzionasse così? No, questo aspetto non mi era noto, ma va detto che tutte le procedure sono quattro sostanzialmente. I livelli di procedura della cassa integrazione, al di là di quella ordinaria che è sempre stata anche prima della crisi, sono procedure diciamo molto complicate, anche la cassa in deroga che passa dalle regioni, e questo ha determinato un forte ritardo nella erogazione dei contributi, ritardo che si assomma al fatto che le coperture messe dal decreto marzo non si sono rivelate sufficienti alla bisogna, cioè la cassa integrazione nelle sue varie forme è esplosa purtroppo molto più ampiamente rispetto a quanto previsto a marzo. Questo ha determinato delle interruzioni di erogazione dei fondi e questo determina un altro problema del decreto aprile, che non si deve limitare a finanziare la cassa integrazione che verrà, diciamo così, ma deve trovare i soldi anche per la cassa integrazione che è già stata chiesta. Senti Gianni, un altro punto che ho considerato, spero non troppo senza rispetto, un po' bizzarro, è questo che riguarda questa ipotesi che sarebbe spuntata di nuovo di una vendita di immobili pubblici per contribuire al risanamento dei conti pubblici italiani. Si starebbe lavorando per mettere a punto la norma da inserire nel decreto rilancio. A. Ritorniamo ancora una volta a parlarne. B. Di quali immobili pubblici e di quale patrimonio pubblico parliamo? C. Ma chi li compra? No, ma infatti adesso vedremo la norma che verrà, se verrà inserita, si parla comunque di un intervento che può portare dei soldi nel 2021, vedremo. Va detto che l'esperienza recente dimostra che i piani di vendita di immobili pubblici servono per abbellire, sono serviti in questi anni per abbellire le manovre, cioè per dire guardate che noi l'anno prossimo taglieremo il debito pubblico di X miliardi perché venderemo immobili pubblici per altrettanti miliardi. Ci ricordiamo il grandioso piano di privatizzazioni da 18 miliardi, un punto di PIL del Conte 1, cioè del governo Conte, diciamo a maggioranza 5 Stelle Lega, che fu presentato a Bruxelles proprio per convincere del fatto che noi avremmo comunque portato il debito pubblico su un sentiero di riduzione. Poi il piano viene allegato alla manovra, viene allegato al DEF, ma poi succede poco o non succede nulla. Il rischio è che anche questa replica abbia lo stesso risultato, perché un piano di questo tipo ha bisogno di, come dire, un progetto molto specifico e un orizzonte temporale molto lungo. Non si fanno soldi con gli immobili pubblici a stretto giro, si possono però mettere degli ottimi piani, delle norme, delle tabelle, delle slide da allegare ai documenti di finanza pubblica. Intanto molti ascoltatori mi stanno confermando, sì, è il lavoratore che si deve attivare con le banche per l'eventuale anticipo della cassa integrazione. E vabbè, pure noi non ce la facciamo a sapere tutto in termini sempre rapidi, e questa proprio mi giunge nuova e oltretutto mi dà pure un po' fastidio, insomma, che debba funzionare in questa maniera. L'ultimo tema, perché è molto gettonato questo dai nostri ascoltatori, Gianni, il reddito di emergenza, quella forma di sostegno che dovrebbe andare tra le altre categorie ai collaboratori familiari, badanti, eccetera. Qui la quadra c'è? Qui la quadra c'è in una versione estremamente ridotta rispetto alle ambizioni iniziali del Movimento 5 Stelle. Dovrebbe essere sostanzialmente un'erogazione in unica tranche intorno ai 1000 euro per coprire, che vorrebbe dire sostanzialmente 500 euro per aprile e 500 euro per maggio, per coprire appunto quelle categorie che non sono assistite, diciamo così, dalle altre forme di ammortizzatori sociali o dalle altre forme di sostegno al reddito, tipo gli 8.600 euro per le partite IVA e gli autonomi che sono stati introdotti a maggio. Caro Gianni, vai a vedere va, se hanno finito e se dopo il preconsiglio dubito. No, dici che vanno avanti ad oltranza. Insomma, no, tra l'altro poi, poi dovrà arrivare pure il famoso DPCM sulle riaperture di lunedì, perché qua tutte le attività che sono pronte hanno strasanificato tutti gli ambienti, in realtà sono tutti pronti a ripartire, ma devono essere anche autorizzati con delle linee guida sulla ripartenza che dovrebbero essere varate da un nuovo DPCM che speriamo appunto Conte non annunci domenica sera alle solite 20:20 sui telegiornali. Grazie Gianni. A presto. Allora, rapidamente il tema del turismo, poi se riusciamo facciamo anche i balneari, però sul decreto rilancio per il settore del turismo oggi il nostro Alessio Maurizio ad effetto giorno ha intervistato Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. Lo sentiamo e poi andiamo direttamente al giornale radio, noi torniamo subito dopo. Ma rilancio di cosa? Di un comparto come quello del turismo che rappresenta dal 13 al 15% del PIL, che dà occupazione solo per la stagione estiva di 1 milione di lavoratori. Ecco, non sono state rispettate quelle che sono le nostre aspettative, peraltro aspettative che sono state date dallo stesso governo e dalla stessa politica, che sembra quasi non tenere nel giusto conto gli interessi del comparto e della filiera intera del turismo. Per cui abbiamo sì un fondo emergenza, ma con un decimo dello stanziamento che c'era stato inizialmente promesso. Abbiamo un fondo perduto, ma un fondo perduto che viene limitato solo ed esclusivamente nel mese di aprile, quindi poca cosa rispetto alla reale necessità di liquidità che hanno oggi le imprese per poter traguardare se stesse all'indomani della fine di questa pandemia. La filiera del turismo non riparte prima di aprile 2021, è uno dei pochi casi in cui la riapertura non coincide con la ripartenza del settore. Il commercio riaprirà, sebbene con un percorso fatto, definiremmo, di lacrime e sangue, farà dei piccoli passi in avanti. Invece il turismo riaprirà, ma non ripartirà, dovrà aspettare necessariamente che anche il turista viaggiatore riacquisti fiducia nel viaggiare, quindi è un percorso lungo. Focus Economia. Eccoci ritrovati in diretta ancora, buonasera a tutti, è tempo di raccontare la giornata di borsa, abbiamo traslato l'appuntamento con il resoconto della seduta in questa seconda parte della trasmissione, peraltro avete sentito poco fa, noi l'avevamo avuto in diretta qualche minuto prima, Riccardo Barlam per quello che riguarda gli Stati Uniti ha richiamato l'allarme del dottor Anthony Fauci, il direttore dell'Istituto Nazionale Statunitense di Malattie Infettive, membro della Task Force che anche la Casa Bianca ha attivato sul coronavirus, ha avvertito che una riapertura anticipata negli Stati Uniti potrebbe favorire lo scoppio di una nuova ondata di contagi e gli analisti finanziari, gli operatori di mercato, attribuiscono a queste dichiarazioni il rallentamento di Wall Street, che infatti è girato leggermente in negativo sullo Standard & Poor's. Dow Jones ancora positivo. Chiude in direzioni separate invece la seduta europea. Parigi negativa da stamattina, mantiene anche il finale, meno 0,39, gira in negativo sul finale Francoforte, meno 0,05, Londra più 0,9 e Milano più 0,98%. Buonasera ad Enrico Miele, Radio Corriere, Le Sole 24 Ore. Enrico, eccoci a noi. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, Telecom Italia più 5,77%. Era da diverse sedute che non vedevamo una prestazione per questo titolo così scoppiettante. Sappiamo che è un momento molto favorevole per le telecomunicazioni tutte, visto che è solo grazie a questi sistemi e le infrastrutture tecnologiche che riusciamo a lavorare, a comunicare e quant'altro, ma c'è qualche notizia particolare che ha fatto volare sulle finali, in particolar modo questo gruppo? Allora, in realtà la visibilità oggi non è tanto, come anticipavi tu, sul titolo, ma è su tutto il settore europeo. Mm. Perché? Perché oggi è uscita la trimestrale di Vodafone e un po' a sorpresa ha confermato il dividendo, mentre negli ultimi mesi le azioni erano calate in maniera importante proprio a causa delle preoccupazioni sulla possibile cancellazione della cedola a causa del coronavirus. Quindi un utile sopra le aspettative e la conferma del dividendo di uno dei più importanti operatori europei hanno dato il là agli acquisti su tutto il settore, compreso ad esempio il concorrente Iliad a Parigi, che oggi ha dato i conti, tra l'altro interessanti anche i numeri sull'Italia, dove sono arrivati a una quota di mercato del 7%, con i ricavi che sono aumentati addirittura dell'86% a 150 milioni. Insomma, In sintesi, il settore delle TLC è quello che ha sostenuto i listini e quindi Telecom di riflesso ha beneficiato di questo movimento. È andata bene di nuovo anche oggi, molto bene Finecobank, +5,11%, il gruppo ha comunicato ieri i suoi dati di trimestre, peraltro l'amministratore delegato Alessandro Foti ha detto che è andato benissimo in questo trimestre appunto di pandemia perché i loro clienti stanno aumentando sensibilmente di settimana in settimana. Prysmian +4,49%, qui che cosa è successo? Allora, qui in realtà al di là dei conti la notizia è, non verrebbe da dire l'ennesima, ma in realtà è importante la commessa dal valore intorno ai 500 milioni di euro in Germania. Parliamo come sempre di una commessa per realizzare i cavi interrati, poi cavi con termini diciamo riduttivo perché parliamo di progetti a circa 300 chilometri che attraversano il paese da nord a sud ed è soprattutto l'ennesima commessa che Prysmian porta a casa in tempi di Covid, quindi a dimostrazione, come dicono anche gli analisti, insomma, questo contratto conferma ancora una volta l'impegno del gruppo nei piani europei di sviluppo dell'elettrica a supporto della transizione energetica. Poi Prysmian è uno dei campioni europei in questo settore. È andata molto bene anche Nexi, +4,41%, un po' per le stesse motivazioni forse di Fineco, transazioni con i sistemi di pagamento hanno registrato un boom in queste settimane e quindi per Nexi anche oggi i conti hanno raccontato questo andamento, questo bilancio. Banca Mediolanum +4%, CNH Industria +4%, sono stati diffusi anche i conti della Multi Utility Lombarda, A2A, il titolo in rialzo del 4%, deduco che siano stati conti soddisfacenti. Enrico. Sì, in realtà era partito in sordina il titolo, poi ha accelerato il passo dopo i conti, ma soprattutto la conferma dei target 2020 che, a detta della società, saranno raggiunti nonostante l'impatto della pandemia del coronavirus, quindi anche a dimostrazione che non tutti i settori sono colpiti allo stesso modo da un lockdown che ovviamente zavorrà la nostra economia. Per quanto riguarda 2A, oggi sulle 24 ore, tra le altre cose, si dava anche conto di un'importante notizia, cioè la nascita della multiutility del Veneto, un mercato dove il settore di acqua, luce e gas è ancora frammentato, che vedrà A2A con una partecipazione del 30% e c'è chi si spinge a ipotizzare in futuro un'aggregazione con Iren e quindi insomma su questo ha messo anche le ali al titolo. E infatti è un settore che per la verità è al centro di un processo di consolidamento da tempo, ci sono state le operazioni con l'Emilia Romagna, è un mercato appunto molto molto interessante che si muove bene. STM +3,58%, Banca Generali +3,37%, Amplifon +2,32%, Snam Rete Gas +2,28%, sto continuando a dare la lista dei migliori titoli, vorrei arrivare a Moncler +49%, e qua ecco quando parla il gruppo di Ruffini che ha una bella fetta di fatturato prodotta sui mercati asiatici, Enrico, sono sempre delle indicazioni interessanti quelle che fornisce. Esatto, è la stessa sottolineatura che hanno fatto gli analisti, dicendo come sempre Ruffini, questo cito nero su bianco, mostra una visione molto chiara e diretta sul potenziale del ben, i driver strategici e la capacità di gestire in modo adeguato le attività anche in tempi difficili. In sostanza Ruffini cosa ha detto? Che ci sono segnali del mercato di ripresa in Asia, mercato asiatico che pesa molto sul settore del lusso, che in proporzione in questi anni è arrivato a pesare sempre di più, addirittura Hong Kong che per le note proteste in trend negativo da oltre un anno inizia a registrare timidi segnali di ripresa, anche se lo stesso Ruffini in maniera molto trasparente si è detto pessimista su Europa e Stati Uniti, che secondo lui non avranno uno slancio di ripresa che si sta registrando invece in Cina sul fronte appunto dei consumi dei beni di lusso. Enrico, sì, ti stavo salutando, avevo anche spento il microfono, sarebbe stato difficile salutarti, grazie molto per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi. Ricordo rapidamente due cose ai nostri ascoltatori, i peggiori titoli di oggi, Buzzi Unice -3,59%, Recordati -2%, Saipem e Tenaris ed Azimut in ribasso dell'1,7%, e poi abbiamo il bilancio della protezione civile che viene diffuso proprio in questi istanti, allora scendono ancora gli attualmente contagiati dal coronavirus, oggi a quota 81.200. 1.566, con un calo di 1.222 assistiti rispetto a ieri. Fra gli attualmente positivi, 952 sono in cura presso le terapie intensive, con un calo quindi di 47 pazienti rispetto a ieri, mentre 12.865 persone sono ricoverate con sintomi, con un calo di 674 pazienti rispetto a ieri. I deceduti sono 172, meno 7 rispetto a ieri, e portano il totale a 30.911 vittime da coronavirus. Questo è il quadro di oggi. Allora, adesso abbiamo un'altra pausa, però, Filippo, se mi consenti, saluterei il nostro ospite che abbiamo rincorso per gran parte del nostro programma, Antonio Capacchione, presidente del SIB, il sindacato italiano balneari, aderente a FIP e Confcommercio. Capacchione, buongiorno, so che è stata una giornata molto impegnativa per lei, con l'audizione anche alla Commissione Industria del Senato. Eccoci, buonasera. Buonasera a voi, scusate per l'inconveniente. È sempre un po', come dire, di folklore del conduttore della radio, che deve così perdere anche un po' di tempo per arrivare alla prossima pausa. Focus Economia. E allora, sarà un bello slalom andare in spiaggia quest'estate, stabilimenti aperti con entrata su prenotazione, ombrelloni distanziati di almeno 5 metri, piscine chiuse, igienizzazione dei lettini se si danno ad un nuovo utente, e queste sono solo alcune delle indicazioni contenute nel famoso, famigerato documento che è stato elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità insieme all'INAIL. Il documento sulla balneazione, cioè tutte quelle istruzioni che i gestori degli stabilimenti dovranno rigorosamente osservare per consentire appunto alle persone di frequentare la spiaggia. Saremo proprio belli tutti quanti con le mascherine e insomma il bagno si potrà fare, ma si dovrà nuotare, non si dovrà stazionare in acqua. Insomma, ci sono tante cose più o meno interessanti, ma che preoccupano un po' tutti gli appartenenti a questa categoria. Il settore balneare in Italia conta 30.000 imprese, 100.000 addetti, che arrivano a 1 milione appunto con l'indotto. Il fatturato prodotto da questo comparto 7 miliardi. Allora, Capacchione, lei stamattina in audizione, ho sentito qualche brano, ha detto vabbè, le regole ci possono pure stare, ma il punto è che in tutti i provvedimenti presi dal governo per sostenere tutti, noi siamo stati un po' dimenticati. La banalizzo così, la sintetizzo così, come dire, la sua dichiarazione di quest'oggi, ma mi pare che il succo fosse questo. Ma in effetti è questa la constatazione, c'è un divario, un stridente contrasto fra l'importanza della balneazione, riguardo un terzo di tutte le presenze turistiche italiane, e la considerazione che la burocrazia, il governo, la politica, le istituzioni danno a queste imprese. Noi abbiamo una legge di un anno e mezzo fa che in molte parti del territorio italiano non è stata applicata, la legge che di fatto proroga le concessioni demaniali al 2033. In assenza di una garanzia di durata delle proprie aziende, di garanzia sulla continuità del loro lavoro, come potranno aprire? E sto parlando di migliaia e migliaia di aziende italiane. Ma lei pensa che proprio in questo momento qualcuno si metterà addirittura a rimettere in discussione tutto l'impianto di questa norma? Per quale motivo siete preoccupati? Ma io me lo auguro di no. Il ministro Franceschini anche la settimana scorsa al Senato e alla Camera ha dichiarato che il governo rimuoverà tutti gli ostacoli per l'applicazione di questa legge. Nelle bozze che sono circolate stamattina sembrerebbe che questa norma già preannunciata dal ministro non ci sia più. Ecco perché c'è l'allarme da parte della categoria. Questo si aggiunge naturalmente a una situazione di grande difficoltà obiettiva. Poi ci sono le linee guida dell'INAIL che sono estremamente restrittive, ma soprattutto non capiamo se siano vincolanti o meno, perché nel contempo certo, le regioni stanno emanando ordinanze esatto, di senso diverso. Esattamente, quindi c'è anche questo tema, no? Che le regioni ovviamente si stanno un po' comportando in maniera diversa, laddove ovviamente anche in questo momento l'estensione del contagio, Capacchione, è molto diverso, pertanto c'è chi fa questa partenza appunto con l'obiettivo di far ripartire le attività economico-produttive, e altre regioni che non se lo possono ancora permettere perché i dati invece sono ancora un po' altini. A voi preoccupa anche questo comportamento eterogeneo a livello regionale? Ma noi abbiamo bisogno, tutti quanti abbiamo bisogno veramente di grande chiarezza. se le linee dell'INAIL sono vincolanti, allora le regioni non possono decidere diversamente. Se invece sono puramente indicative, è opportuno che lo si dica, altrimenti si crea una grande confusione e noi francamente non sappiamo come operare. Poi c'è bisogno di semplicità nelle regole. Noi vediamo che altri paesi nostri concorrenti, ho verificato nei giorni scorsi le disposizioni per quanto riguarda la ristorazione, e voi sapete che molti stabilimenti balneari fanno anche ristorazione. Ebbene, le disposizioni dell'Austria sono semplicissime, 9 regole semplicissime. Allora voi immaginate un austriaco o un tedesco che trova lì delle regole estremamente semplici, poi viene in Italia, si spaventa, scappa via. Ecco, la necessità di un contributo di chiarezza da parte delle istituzioni. Quindi lei, vedo che lei è anche positivo sul fatto che possono arrivare dei tedeschi quest'estate, già se fosse consentito in serenità a tutti gli italiani che non possono andare all'estero, praticare almeno le proprie spiagge in maniera chiara e trasparente sarebbe già molto. Lei è anche piuttosto ambizioso in questo senso, Capacchione. Ma no. Guardi, noi gli imprenditori devono necessariamente essere ottimisti, altrimenti non avrebbero scelto di fare questo mestiere. È evidente che quest'anno noi avremo pochissimo, se non nessun, turismo di carattere internazionale. Il turismo anche interno è un turismo impoverito, impaurito soprattutto. Quindi c'è da fare un grande sforzo per portare le persone al mare, per dare un po' di serenità, di tranquillità a una popolazione che è stremata da questa situazione. Certo. Ecco perché ci vuole uno sforzo da parte di tutte le istituzioni per evitare quella confusione che è inequivocabile, una confusione che non aiuta nessuno, né gli operatori, né le istituzioni, nessuno. Se si va per priorità, diciamo che essendo che la stagione turistica ormai è praticamente partita, almeno a livello stagionale meteorologico, è chiaro che vi dovranno dar retta e darvi delle linee guida, come lei diceva, assolutamente chiare e più o meno valide per tutti per farvi ripartire. Un'ultima domanda, Capacchione, perché poi ho l'ultimo ospite, purtroppo non riesco a fargliene molte, ma si raccomanda anche a livello centrale al settore di favorire l'utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte senza contatto, le contactless, o attraverso portali e applicazioni web per le prenotazioni magari dell'ombrellone e del posto da occupare, e anche per favorire i pagamenti dei beni che si vorranno acquistare nei vostri stabilimenti, perché si vorrebbe disincentivare l'uso appunto della moneta e delle banconote, perché veicolano ovviamente possibilità di contagio. Come la vede lei questa parte? Perché non sempre voi avete una nomea di grande voglia di utilizzare strumenti di pagamento elettronici, ecco. Ma guardi, è un processo già in corso, negli anni scorsi già si è affermato, quindi sarebbe un'accelerazione di un processo oramai inevitabile, ineluttabile, per cui siamo prontissimi a farlo. Non è questo certamente che ci preoccupa. Grazie ad Antonio Capacchione, SIB, Sindacato Italiano Balneari. Un nuovo segnale d'allarme arrivato anche da questa categoria quest'oggi, fra le tante che ne stanno lanciando. L'ultimo tema di stasera. Roberto Darini, Il Sole 24 Ore, buona serata anche a te. Buona serata a tutti. Ci risiamo. Allora, l'Argentina di nuovo inadempiente nei confronti dei suoi creditori internazionali. Qua abbiamo un debito in circolazione di quasi 70 miliardi di dollari e a quanto pare appunto recentemente il governo argentino guidato da Alberto Fernandez si sarebbe dimenticato di pagare la cedola. Vabbè, insomma, a parte gli scherzi, è l'ennesimo crack potenziale di questo Stato, che avrebbe adesso invece attivato un dialogo con i suoi creditori per capire se può ristrutturare per l'ennesima volta nella sua storia. Raccontaci un po' a che punto siamo, Roberto, e effettivamente ci risiamo ancora. Tra l'altro tu ne hai scritto tanto per Il Sole, ne ha scritto anche Gianfranco Ursino sulle pagine di Plus di sabato scorso, e parlava proprio di questo indebitamento argentino che sfugge sistematicamente di mano, ed è così. Sì, è così, questa volta i numeri sono questi, tu dici bene, sono quasi 70, per la precisione 69 miliardi di dollari, e la scadenza che il governo argentino non ha onorato è stato il versamento di una cedola di 500 milioni di dollari che avrebbe dovuto pagare il 22 aprile. Ora c'è il periodo di grazia che è scattato immediatamente, quindi gli arriva il 22 di maggio. A quella data si dovrà trovare un accordo, oppure tecnicamente scatta il default per quei 500 milioni di dollari. La situazione è, come dire, è seria ma non grave, nel senso che da quanto è emerso dalle prime consultazioni con i grandi creditori è probabile che un accordo si trovi e si riesca a evitare che poi nulla, per carità, in Argentina non si può mai dire, però nei prossimi 10-15 giorni è facile che si arrivi, ormai 10 giorni perché oggi è l'11 appunto, quindi bisogna, il countdown è già iniziato. I grandi creditori, esatto, hanno rifiutato inizialmente la proposta che prevedeva appunto un taglio del 5,4% sul capitale e il 62% di taglio invece sugli interessi dovuti, stiamo parlando di un totale di 38 circa miliardi di dollari, insomma cifre importanti. Il guaio è che effettivamente in Argentina ci rischiamo e quella stabilizzazione che avrebbe potuto esserci con il governo precedente, quello non peronista, non c'è stata e ora il governo peronista si è insediato appunto pochi mesi fa. A dicembre, sì. A metà dicembre, il 15 di dicembre, si è trovato un disastro di una situazione pubblica, una situazione macrofinanziaria piuttosto compromessa. Certo. Quindi forse è per questo che c'è disponibilità, diciamo, da parte dei creditori internazionali, perché tutto sommato lui deve gestire una situazione che si è ritrovato e del quale non può essere considerato appunto responsabile. Forse per questo c'è l'apertura. Che dici? Allora, ti dico che in parte sì, in parte no. Allora, i creditori sul mercato finanziario in genere non guardano tanto poi a chi è colpa di chi e come, chi ha maggiori responsabilità. Certo, il governo liberista di Mauricio Macri ha disatteso tutte le aspettative, aveva trovato un'inflazione del 25% e per non sbagliarsi ne ha lasciata una del 50%, quindi ha peggiorato la situazione e il paese è scivolato in una recessione più profonda dell'inizio del loro mandato. Appunto. Quindi è stato un errore fatale, quello, un'occasione sprecata, quello del governo precedente. Ora però è in carica questo peronista. Ora il governo peronista sempre in Argentina ha un plus di consenso superiore a quello dei governi liberisti, quindi questo è un aspetto positivo. Naturalmente tutto dovrà essere rivisto entro una settimana. Il vantaggio rispetto alle altre volte è che il Fondo Monetario, che ha un sacco di grane sul tappeto a livello internazionale, principalmente dovute al Covid, sicuramente non avrà voglia di un altro default argentino. Quindi interviene un po' come assistenza. Si è già esposto per cercare di mitigare e allineare domanda e offerta, la domanda dei creditori e l'offerta del governo peronista di Alberto Fernandez. Grazie Roberto Darin, puntualissimo per essere stato con noi. Insomma, allora ci risentiremo presumibilmente fra qualche giorno per capire se la proposta fatta dal governo argentino ai suoi bondholder e agli creditori appunto internazionali sarà probabilmente rivisitata e quindi di conseguenza vedremo se accettata. Grazie Roberto Darin, grazie a tutti per averci ascoltato. Io ritorno domani con Due di Denari con Mauro Meazza. Domani sera per Focus e ritorna Sebastiano Barisoni. Buona serata a tutti.